nell'amara dolcezza dei film dove canta la vita. Ed un papa si affaccia, carezza i bambini e la luna, mentre l'anima dorme davanti a una scatola vuota. Suona ancora per tutti campana, e non stai su nessun campanile, perché dentro di noi troppo in fretta ci allontana. Quel giorno di aprile, e sempre mi commuovo quando ascolto questa canzone bellissima di Francesco Guccini, tratta dal suo ormai penultimo disco, l'Ultima Thule, è uscito ormai 11 anni fa, era il 2012, c'era anche la chitarra di Flaco Biondini, una canzone che ovviamente abbiamo mandato in onda per festeggiare e ricordare questo 25 di aprile, anche se ormai sono passati alcuni giorni. E Banzo, ti do subito il benvenuto e ti auguro un buon 25 aprile. Bentornato, più ergonomico che mai, Enrico Banzola, come stai? Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, è sempre bello essere qui, ovunque sia qui, però dico su queste frequenze. E sì, come ricordavi, è passato il 25 aprile e si tratta di un 25 aprile molto importante per ragioni che abbiamo ricordato anche nella nostra scorsa puntata, con una serie di canzoni, vi invitiamo ad andare a cercarla, con una serie di canzoni che parlavano dei fascisti, ovviamente da una prospettiva critica o di sberleffo, perché effettivamente ci troviamo a festeggiare la festa fondazionale della nostra Repubblica con i post-fascisti al governo, ed è una situazione che, diciamo, nello scenario più gentile definirei imbarazzante. Eh sì, soprattutto quando siamo praticamente a 100 anni dalla marcia su Roma. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, trovate il podcast di una puntata monografica appunto dedicata a canzoni legate al fascismo e soprattutto alla lotta contro il fascismo nell'ultimo secolo, dagli anni 20, dagli anni 30, dagli anni del ventennio fino all'attualità. Quest'oggi insomma un piccolo reminder per aprire questa puntata, ne parleremo ancora in realtà anche con il prossimo brano, che è una news appena uscita e molto attesa di un grande cantautore italiano, Banzo, ma ne parleremo anche nel resto della puntata, perché non parleremo solo di Inverno Liquido quest'oggi. Che cosa vuol dire Inverno Liquido? È il titolo di un libro uscito all'inizio di questo 2023, il cui sottotitolo è La crisi climatica, le terre alte, la fine della stagione dello sci di massa, di Maurizio De Matteis e Michele Nardelli. Sarà con noi proprio Michele Nardelli per parlarne, insomma tematica più che all'ordine del giorno, quella del cambio climatico e della transizione ecologica, ecco, ma non parleremo solo di questo. Forse Steven, una tematica che i telegiornali affronterebbero, penso al TG1, solo dalla prospettiva degli esercenti. Ecco, ma prosegui pure. Sì, molto probabile. Ecco, ma non parleremo solo di Inverno Liquido, dicevo, ma anche di Storia Contesa. Ecco, la Storia Contesa, per quanto riguarderà i libri dello Zibaldone, ci porta appunto a parlare anche della situazione attuale italiana, appunto per insomma l'uso politico che si è fatto del passato, di quello del fascismo e della resistenza nell'Italia contemporanea, soprattutto negli anni della Seconda Repubblica. Ma oltre a tutto ciò ci sarà tanta musica, news italiane come quella che vi proponiamo proprio ora, lo annunciavo, il grande cantautore Vinicio Capossela, è uscito questa settimana il suo nuovo disco in cui è contenuta anche questa canzone, Staffette in bicicletta, ovviamente un omaggio, un riferimento alle staffette partigiane. Eccola qui. Wanda, Gina, Rina, Rosina, Bruna, Antonia, Elisabetta, la staffetta in bicicletta. Pompa cuore, il sangue ancora, batti cuore, batti nel cuore, la staffetta in bicicletta. Serafina, Alice, Anita, passa il ferro, l'arma, la vita, passa il testimone, che arrivi fino a noi. Come il vento di primavera non si ingabbia nella rete

la voce femminile ideale per accompagnare Capossela in una canzone a tematica partigiana. Assolutamente sì. Sulle 13 canzoni urgenti vorrei solo aggiungere come ha presentato questo nuovo lavoro Vinicio Capossela, e tra l'altro un lavoro atteso da tempo, non perché Capossela non avesse fatto dischi negli ultimi anni, ma perché spesso gli ultimi dischi erano tematici o per così dire concept album, no? E in questo caso invece si torna, diciamo, al Capossela forse che ci mancava da un po', ha dichiarato Vinicio: 13 canzoni urgenti è il titolo del disco che verrà pubblicato il prossimo 21 aprile. Sono canzoni scritte, prodotte e registrate nel corso dell'ultimo anno, in questo tempo di dubbio e di distanza, di fine del mondo servita al ritmo di un allarme al giorno, a partire dal 24 febbraio del 2022, da quando si è presa consapevolezza che il tempo per rimandare le questioni urgenti non è illimitato e reclama la nostra piena appartenenza al presente. Ci saranno, insomma, l'avete magari già ascoltato o l'avete già insomma sentito, che musicalmente ci sono diversi generi, dalle ballate al valzer, a un cha-cha-cha, reggae e il dub, fino alla follia cinquecentesca. Insomma, tante cose, come sempre Capossela riesce sempre a stupirci, e sicuramente lo farà anche in questa occasione, immagino, per molti di chi ascolteranno questo album. Noi ci torneremo sopra comunque. Banzo, prima di andare subito a trovare il nostro primo ospite Michele Nardelli per parlare di cambio climatico e del libro che ha appena pubblicato con Maurizio De Matteis, Inverno Liquido, abbiamo un'altra canzone che è di è una news, ma è anche di un artista tuo conterraneo che tra l'altro anni fa era stato anche ospite nel nostro programma radiofonico. Beh sì, c'è sempre, tutte le volte che mi dici questa frase a me parte la nostalgia, è inevitabile, ormai i nostri ascoltatori lo sanno, saranno anche annoiati. E sì, si tratta di una canzone di Mara Nine, che, se la memoria non mi inganna, era Cesenate, quindi non esattamente dai miei paraggi, però assolutamente romagnolo, e la canzone ha un titolo piuttosto misterioso che forse spiegheremo dopo l'ascolto, se ci sarà modo. Azul Fellawen. Eh sì. Ah, e io la lascerei scoprire ai nostri ascoltatori, poi dopo magari ci torniamo su durante questa puntata, e sicuramente più avanti risentiremo anche, o magari sarà di nuovo fisicamente in radio con noi, Mara Nine al secolo Andrea Pari, e magari ce lo racconterà anche lui, perché so che sta lavorando a un nuovo disco e questa è un'anticipazione. Azul Fellawen, lui è Mara Nine. Eres libre? No, soy esclavo della libertà. Sea mi amigo, azul, vela, una, es un invento. Ah, ma sì. Siamo qui in diretta a Zibaldone perché con noi abbiamo il primo ospite di questa puntata. È con noi Michele Nardelli, formatore, saggista, è stato presidente del Forum Trentino per la Pace, fondatore dell'Osservatorio per i Balcani e anche consigliere regionale del Trentino Alto Adige. È con noi quest'oggi per parlarci del suo ultimo libro, uscito all'inizio di questo 2023 per i tipi di Derive a Prodi, un libro scritto a quattro mani insieme a Maurizio De Matteis ed intitolato Inverno liquido, la crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa. Innanzitutto benvenuto a Zibaldone Michele, un piacere davvero averti con noi. Buongiorno a te e a tutti voi che ascoltate, grazie. No, un piacere averti perché noi ci conosciamo da anni, ma averti anche per parlare di queste questioni. Insomma, il sottotitolo ci riporta a un tema di grande attualità che è quella della crisi climatica, o se vogliamo, no, se ne parla tanto del cambio climatico, della transizione ecologica. Ecco, ma poi appunto nel vostro libro andate anche più sul concreto, non rimanete in quelli che un tempo si sarebbero detti i massimi sistemi. Si tratta di un libro appunto che è frutto di un lavoro d'inchiesta portato avanti durante praticamente due anni con testimonianze lungo le Alpi e gli Appennini per cercare di capire com'è la situazione, che cosa si può fare, ma anche tenendo conto delle questioni economiche e da qui il titolo del libro Inverno liquido, anche a uno sport che probabilmente magari i nostri figli o i nostri nipoti sulle Alpi non potranno più praticare, mi riferisco allo sci, no? Quindi insomma cominciamo da qui Michele per parlare di un tema enorme, di grande attualità e ovviamente che pone sul tavolo una serie di questioni che come società dobbiamo affrontare quanto prima. Certo, noi abbiamo cercato di costruire questa inchiesta avendo come riferimento una sorta di cornice che riguarda il grande tema di come le crisi, uso al plurale questa parola per dire che non abbiamo a che fare con emergenze, ma sempre più frequentemente con crisi strutturali che richiedono quindi un approccio profondo e non semplicemente delle risposte immediate. E poi per il fatto che le crisi non vengono mai da sole, si intrecciano tra loro, tant'è vero che durante la pandemia si è dovuto parlare di sindemia proprio per descrivere la complessità di quello che stava accadendo e l'impatto sugli ecosistemi. Gli ecosistemi sono le terre alte, senz'altro, le montagne, ma anche le città, le aree metropolitane, le pianure, i fiumi, i mari. No, insomma, diciamo così, le modalità attraverso cui noi abitiamo nei luoghi appunto dove viviamo e questa inchiesta ha come poi focus specifico appunto quello che sta accadendo all'industria dello sci proprio per effetto di alcune di queste crisi ed in particolare della crisi climatica, perché quello che sta avvenendo è davvero un cambiamento profondo che richiede uno sguardo lungo, non ci si può approcciare di fronte all'impatto sulle terre alte della crisi climatica semplicemente immaginando che un anno è andato così, speriamo che l'anno prossimo vada diversamente. Noi sappiamo già come andranno gli anni prossimi, insomma. Le previsioni ormai sono inequivocabili, i segnali pure, insomma, e quindi io credo che noi dobbiamo abituarci ad affrontare questi temi con grande attenzione e con un approccio appunto che non sia quello emergenziale, perché attraverso l'approccio emergenziale non si va da nessuna parte. In questo senso noi abbiamo appunto deciso con Maurizio De Matteis, che da anni si occupa lui è direttore della dell'associazione Dislivelli e si occupa appunto di terre alte, abbiamo deciso di fare un'indagine per capire quanto e come le comunità locali, le comunità soprattutto delle terre alte, si stanno interrogando su questa dimensione di crisi, percorrendo tutto l'arco alpino e tutta la dorsale appenninica di questo paese. E così facendo abbiamo dato voce, diciamo così, a tutti i soggetti che in qualche modo interagiscono con questo cambiamento profondo, perché di un cambiamento profondo si deve parlare. Ecco, nel far questo abbiamo cercato di avere un occhio al quadro generale, a quello che Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si chiama quello che accade alla nostra casa, e contemporaneamente specifico appunto di un'inchiesta che riguarda l'industria dello sci, perché l'industria dello sci è stato l'elemento economico che in qualche modo ha teso a fagocitare in qualche modo tutte le altre forme economiche della montagna, ed è stata davvero un'inchiesta importante, perché ne è venuto un libro di testimonianza in cui abbiamo dato voce a tutti, a prescindere, diciamo così, dai loro interessi specifici, proprio per capire appunto quanto si stia interrogando su questa situazione. Non è affatto banale, perché tutti pensiamo che di avere la consapevolezza di quello che sta accadendo, certo, ma poi se andiamo a vedere tutti immaginiamo che anche i cambiamenti climatici avvengono in maniera lineare, quasi che ci fosse il tempo per poterla affrontare con tutta tranquillità. Invece non è così, e poi appunto spiegherò anche il perché, nel senso che oggi stiamo assistendo ad una dimensione inedita, ecco, quello mi sembra importante sottolineare, cioè il fatto che per prima cosa i cambiamenti climatici che nella storia della Terra ci sono sempre stati avvengono per la prima volta per effetto dell'azione dell'uomo e dei suoi modelli di sviluppo, e poi il secondo elemento inedito è la rapidation, sempre per usare le parole di Francesco, ovvero la rapidità con cui questi cambiamenti stanno arrivando. Sì. Su questo appunto è un tema tra l'altro all'ordine del giorno quanto mai, tenendo conto non solo, pensando alle terre alte appunto, al fatto che molti ghiacciai stanno praticamente scomparendo, ma al fenomeno della siccità che sta colpendo duramente l'Italia, sta colpendo duramente tutti i paesi del Mediterraneo, ma in realtà tutta l'Europa, e che pone una serie di questioni appunto anche dal punto di vista economico e della sopravvivenza di una serie di lavori, pensiamo anche, o almeno insomma lavori come sono stati portati avanti negli ultimi decenni, come quello dell'agricoltura. L'esempio dei ghiacciai è molto importante, perché i ghiacciai dell'arco alpino entro il 2050, tranne quelli sopra i 3000 metri, scompariranno. E la scomparsa di un ghiacciaio non è una cosa come un'altra, perché questi ghiacciai esistono come minimo da 14.000 anni, ovvero dall'ultima glaciazione, e quindi vuol dire che in tutto questo tempo l'uomo non ha mai assistito ad un processo di questo tipo, e i ghiacciai sono la più grande riserva d'acqua che l'uomo ha potuto avere nella possibilità di vivere, perché i ghiacciai sono l'acqua per la vita quotidiana, e i ghiacciai sono l'acqua per l'energia idroelettrica, i ghiacciai sono l'agricoltura, e quindi in questo senso la scomparsa dei ghiacciai rappresenta qualcosa che inciderà sulla vita di ciascuno di noi in maniera particolarmente, particolarmente forte. Il fatto che poi avvenga questo fenomeno dentro le nostre piccole esistenze significa che si sta rovesciando il tradizionale disallineamento tra tempi storici e tempi biologici. Noi siamo stati abituati a pensare ai tempi storici, quelli delle nostre vite, come tempi molto rapidi, e i tempi biologici che avevano invece la lentezza dei cambiamenti del pianeta, insomma, quindi le ere geologiche. Oggi c'è un rovesciamento, e quindi paradossalmente i cambiamenti biologici avvengono dentro le nostre esistenze, quindi vuol dire che c'è qualcosa di assolutamente inedito rispetto al quale il nostro modo di pensare, i nostri paradigmi, per usare questo termine, non funzionano più e quindi dobbiamo cambiarle. E da questo punto di vista, prima ci accennavi all'inchiesta che avete portato avanti, il cui risultato si trova appunto in questo libro, Inverno Liquido. Volevo chiederti, parlavi anche di interessi ovviamente diversi, specifici, nelle diverse comunità delle Terre Alte, no? Le Alpi e gli Appennini in questo caso. Ecco, insomma, qual è un po' il risultato, se riesci a mostrarci, a farci una panoramica di questa vostra inchiesta? Perché avete parlato con persone diverse che si occupano, no, di lavoro, hanno professioni, certo, hanno interessi diversi, insomma un po' anche tenendo conto che Alpi e Appennini sì che hanno punti in comune, ma parliamo anche di realtà distinte. Che cosa possiamo trarre un po' come conclusioni di questa vostra inchiesta? Possiamo intanto renderci conto del fatto che pur essendo ormai chiaro che questi processi di cambiamento si realizzeranno, ancora c'è molto accanimento terapeutico, l'abbiamo chiamato così, verso il vecchio modello sostanzialmente. E il vecchio modello era dentro un paradigma per cui non c'erano problemi né di approvvigionamento dell'acqua né temperature per l'innevamento artificiale. Era il modello praticamente che era il modello estrattivo ed era poi il modello che ha trasformato le nostre montagne in appendici delle città, questo trasferimento del modello urbano dentro le stazioni turistiche, insomma, no? E questa cosa vediamo che ancora è ben lungi dall'essere superata questa logica. Devo dire che molto spesso si stanno usando anche i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza proprio a sostegno di progetti che avevano come riferimento proprio il vecchio modello. E poi però c'è anche un interrogarsi interessante, e noi in ogni capitolo abbiamo, accanto alle criticità, abbiamo cercato di dare voce alle esperienze che provano questo cambiamento. Ora qui bisogna essere molto onesti, insomma, noi non è che pensiamo che immediatamente si possa determinare un'alternativa ai grandi impianti dello scivolamento, insomma, no? E però se non iniziamo subito ad immaginare uno scenario diverso, certo, fra 10 anni ci troveremo a sbattere il muso, insomma, e quindi c'è bisogno di dare voce e valore alle piccole esperienze che si stanno realizzando e che provano a immaginare un diverso rapporto sia con la montagna che con la neve, per poter in qualche modo prefigurare quello che potrebbe essere una nuova sostenibilità per la montagna. In questo senso devo dire che stiamo trovando alleanze inaspettate. Devo dire, insomma, noi abbiamo realizzato sin qui 51 presentazioni, l'abbiamo fatto anche in aree particolarmente vocate, diciamo così, allo sci, insomma, non soltanto in Trentino ma in tutto l'arco alpino e anche nella dorsale appenninica, e contrariamente a quello che avremmo immaginato abbiamo trovato una sensibilità anche in operatori turistici oppure in soggetti che lavorano sugli impianti che non ci aspettavamo, perché ormai è evidente, insomma, i dati ci dicono che nel 2050 la linea di affidabilità della neve, che corrisponde ad una quantità di neve di alta 30 centimetri per almeno 100 giorni, crescerà di 450 metri. Quindi significa che nel 2050 gran parte delle stazioni turistiche invernali, dal punto di vista dell'affidabilità della neve, saranno fuori gioco. Questo non significa che non si possa più sciare, evidentemente, perché le grandi nevicate ci sono ancora, no? E per fortuna, e speriamo che ci siano in continuazione. Non si può più immaginare quel rapporto che abbiamo visto fin qui, e cioè che quando non c'era la neve l'uomo ci pensava a farla sostanzialmente, certo, quindi andare a prendersi, no, perché poi sono tutti processi molto costosi e rispetto ai quali l'industria dello sci ha sempre scaricato sugli enti pubblici questi costi, insomma, no? Non va bene così, non va bene, perché l'acqua non c'è neanche per bere, insomma, ci sono già molti comuni della zona dove io abito, il Trentino, che si approvvigionano con le autobotti già ora, e siamo semplicemente in primavera, non oso immaginare quello che accadrà quest'estate. Per cui io credo che la cosa interessante che stiamo verificando proprio nella presentazione di questo libro è che arrivano persone che magari sono i responsabili degli impianti, persone che appunto qualche anno fa avremmo detto sono i nostri antagonisti sostanzialmente, che vengono e ci dicono grazie per le proposte, per la valorizzazione delle esperienze locali, perché tutti ci dobbiamo incamminare su questa strada, sulla strada cioè della diversificazione della proposta turistica e soprattutto per quanto riguarda le stagioni invernali. Ascolta Michele, questo è interessantissimo quello che ci spieghi. Parlavi di un cambio di paradigma, no? E cercavi anche di spiegarcelo a partire appunto da un'analisi di quello che avete visto, di quello che sta succedendo, e parlavi anche o accennavi a esperienze positive, diciamo, che vanno nella giusta direzione. Ce ne potresti magari menzionare qualcuna per capire anche appunto come potrebbe essere questo nuovo paradigma? Allora, intanto il cambio di paradigma riguarda il fatto che quello che dicevo, cioè il fatto che le chiavi di lettura sostanzialmente di un tempo non funzionano più. Noi siamo tutti figli del positivismo che si declinava o nella società dell'abbondanza o nel sol dell'avvenire, insomma, no? Ma quando si pensavano, voglio dire, questi grandi pensieri, no? Il mondo viveva in un altro contesto. All'inizio dell'Ottocento abitavano il pianeta meno di un miliardo di esseri umani, e il consumo delle risorse era sostanzialmente irrilevante. Noi siamo arrivati al 1960 con quasi 3 miliardi, diciamo, di popolazione, e con un consumo che era ancora la metà di quanto gli ecosistemi riuscivano a produrre. Nel 71 siamo andati al pareggio con 3 miliardi e mezzo di persone. Nel 2022 abbiamo raggiunto quota 8 miliardi e consumiamo 1,8 volte quello che gli ecosistemi sono in grado di produrre. E allora vuol dire una semplice cosa: noi siamo andati oltre il limite, e il limite è la consapevolezza del limite, è questa parola limite che deve diventare il nuovo paradigma. E che però oggi è ancora priva di cittadinanza nel dibattito pubblico, perché tutti ancora siamo con la testa dentro le magnifiche sorti progressive dello sviluppo. Non va bene, voglio dire, no? E oggi parlare di limite c'è un'accezione negativa, quando in passato, penso negli antichi greci, l'accezione di limite, peras, era positiva ed era aperion, cioè l'illimitatezza, l'elemento negativo. Noi oggi su questo abbiamo costruito l'idea che l'uomo fosse il signore del mondo, insomma, no? Solo che c'è un piccolo particolare: la natura può fare a meno dell'uomo, ma l'uomo non può fare a meno della natura. Noi non possiamo, voglio dire, dominare la natura. Noi siamo una piccola, infinitesima parte della natura. E quindi questo è un vero e proprio cambio di paradigma. Per quanto riguarda poi le esperienze concrete, noi ne abbiamo annoverato molte, insomma, dal Piemonte al Sud Tirolo, agli Appennini, laddove abbiamo cercato appunto di immaginare intanto un modello turistico diverso, riferendoci alla Val di Funes, che è questa piccola valle del Sud Tirolo, a ridosso delle Odele, queste montagne meravigliose, ma anche nelle vicinanze delle piste della Dolomiti Super Ski, insomma, ecco. Hanno immaginato e stanno immaginando una riconversione del turismo legata agli aspetti relazionali, il turismo delle relazioni, riflettendo su una cosa, e cioè quello che le persone che vanno a conoscere un territorio poi si portano via, no? E non possono portarsi via semplicemente le loro performance, non si accresce né dal punto di vista culturale né del rapporto con il mondo e la natura in una modalità di turismo di questo tipo. È come quando si va nei grandi resort e non incontri mai la popolazione del luogo, non ti rendi conto di niente di quello che accade sul territorio, e il turismo delle relazioni è invece il turismo che ti fa entrare dentro il maso, che ti fa entrare dentro la vita delle persone, e dalla quale puoi prendere tantissimo, insomma, proprio dal punto di vista della capacità di capire, anche di capire la fatica, di capire le cose, diciamo così, più dolorose, se vuoi, nella vita delle persone, perché certamente alzarsi alle 3:30, alle 4 del mattino per mungere le mucche, voglio dire, non è esattamente quello che uno può desiderare come aspirazione massima, insomma. E però questo è il lavoro, è la capacità appunto delle persone di trasformare quelle cose, le materie prime, in quella cosa straordinaria che poi appunto arriva sulla nostra tavola. Io credo che questo, voglio dire, sia una modalità diversa di fare turismo, il che non esclude affatto il gusto e il piacere anche di andare a farsi una sciata, ci mancherebbe altro, ma dentro appunto una relazione che tu costruisci con il territorio, che non è quella del portarti via cose, voglio dire, dell'estrazione, certo. Ma appunto quella di crescere insieme al territorio che vivi. E così, voglio dire, appunto abbiamo avuto le esperienze della Val Verai, di diverse valli del Piemonte, insomma, di cui abbiamo parlato, perché esperienze come quella di Pragelato sono esperienze che ci dicono ci parlano della possibilità di una riconversione anche appunto turistica, anche legata allo sci delle nostre montagne, però anche lì diversificando. C'è una cosa particolare appunto che riguarda l'industria dello sci, ma lo trasferisco altrove e ti porto l'esempio appunto di un'isola, a partire proprio dal fatto che quello di cui parliamo sono certamente le montagne, ma sono anche, voglio dire, gli altri ecosistemi. Qualche anno fa ero a Pantelleria è l'isola dei capperi. No? Sì. E parlavo con delle persone del luogo e gli dicevo e gli chiedevo appunto come va con questa produzione locale, eccetera, e mi dicevano ma questa cosa si sta abbandonando perché è un lavoro molto duro, perché il cappero è la raccolta del fiore di quella pianta, e più piccolo è il fiore, il bulbo, diciamo così, più ha valore, insomma, più è prezioso, solo che è un lavoro che non certo. Rende moltissimo, insomma, certo. E loro mi dicevano noi affittiamo per 5 mesi all'anno il nostro Damuso, e con quello guadagniamo molto di più che non con la raccolta del certo, è certo. Ma questo significa omologazione, questo significa appunto che le caratteristiche per cui un territorio è conosciuto scompaiono progressivamente, certo. No, viene meno il genio del luogo, insomma, certo. E la stessa cosa vale anche per la montagna, perché la montagna ha dato sicuramente nel corso degli anni un facile guadagno, insomma, le nostre valli erano valli povere, dove si viveva di agricoltura, di pastorizia, di taglio del bosco, delle risorse della montagna, insomma, e questi erano lavori faticosi, eccetera. L'industria dello sci ha cambiato rapidamente questa situazione, facendo arricchire spesso le comunità locali. Oggi però tutte quelle attività economiche che avvenivano grazie appunto a queste tradizioni del territorio tendono a scomparire, anche perché molto spesso le catene degli alberghi sono catene che del territorio, delle loro produzioni, non gliene frega assolutamente niente. No? E quindi abbiamo a che fare con la scomparsa di filiere territoriali che avrebbero potuto essere legate anche al turismo, e quindi di fatto il rischio sostanzialmente che si è corso e che si sta correndo è il fatto che se per un primo momento questa dell'industria dello sci ha determinato arricchimento delle nostre valli, a lungo andare sta determinando impoverimento. Se a questo aggiungiamo gli effetti delle crisi, della crisi climatica in particolare, il quadro è completo. Certo. E telegrafico, ti chiedo un'ultima battuta, Michele, prima di salutarci. Sei ottimista o sei pessimista sul futuro? È una domanda che mi fanno sempre. guardo queste cose, a questa situazione, con grande preoccupazione per il fatto che è la mia generazione è la nostra generazione, ci metto dentro un po' anche te, insomma, certo. No? Che ha contribuito in maniera particolare a determinare questa situazione. E quindi io mi sento addosso questa responsabilità, anche se l'ho sempre pensata diversamente, ma questo non può essere un alibi, insomma. La nostra generazione è stata la generazione per la quale tutto era possibile, appunto le magnifiche sorti progressive dello sviluppo. E questo lo vivo con anche l'angoscia, insomma, di quello che noi consegniamo alle generazioni che verranno. E allora la scrittura di un libro, la sua realizzazione, le sue presentazioni sono, come dire, quasi una sorta di risarcimento, ecco, che mi viene da offrire, insomma, a quelli che vengono dopo di noi. E per cui dentro questo ci sta anche evidentemente l'ottimismo, insomma, della possibilità. Io non sono certo, ma perché ce lo dicono gli scienziati, che sarà difficile invertire la rotta nel corso di questo secolo. Sì. Solo che se non iniziamo ora, sarà sempre peggio, insomma. Sì. Abbiamo nella presentazione del libro, in uno dei primi capitoli, insomma, che sono poi due capitoli che io e Maurizio abbiamo firmato in prima persona, io ho usato una frase di Laura Conti, che è una delle madri dell'ambientalismo in Italia, quando ancora nel 1974 scriveva: da qui in avanti il momento in cui fermarsi è più facile è ora. Ora è più difficile di ieri, ma è più facile di domani. Ora è più difficile che un anno fa, ma è più facile che tra un anno. Ecco, io credo che questo sia una nota, credo, di ottimismo della volontà, appunto, per usare una vecchia terminologia, perché prima capiamo che è necessario cambiare in profondità e prima potremmo riuscire ad avere condizioni migliori per effettivamente raggiungere questo cambio di rotta. Se non lo facciamo, io credo che l'umanità sia destinata all'estinzione. Sono assolutamente d'accordo con te, Michele. Ti ringrazio davvero di averci accompagnato quest'oggi per parlarci del tuo ultimo libro, scritto a quattro mani, lo ricordavi, con Maurizio De Matteis, Inverno liquido, la crisi climatica, le terre alte, la fine della stagione dello sci di massa, uscito all'inizio di quest'anno per i tipi di derive a Prodi. Michele, grazie davvero di averci accompagnato e a risentirci. Grazie presto. A te e grazie a quelli che ci ascoltano, buon lavoro. possibilities and the fields with the trees, promising that the rain won't show up. Sì, abbiamo cambiato un po' genere musicale, ve ne siete resi conto con questa Sunny Cloudy di Gianni Sciannamè, una news che non ci arriva dall'Italia, in questo caso Banzo ci arriva direttamente da Barcellona. Esatto, perché si tratta di un artista italiano che peraltro era anche stato nostro ospite anni fa. E che salutiamo, lo salutiamo tanto, vediamo quando torna a trovarci in radio. Ciao Gianni, che però appunto da molto tempo vive a Barcellona e è dedito a sonorità, come avete avuto modo di constatare, fra funky e soul. Ecco, avrei scartato la musica dodecafonica, decisamente, ma un brano dalle sonorità decisamente, mentre cercavo un aggettivo, flessuosa. Ecco. Sì, fa stare bene, una canzone molto estiva, devo dire la verità, o come minimo primaverile. E, tra l'altro Gianni, potete apprezzare la sua musica, in questo caso non solo la sua, ma quella che a lui piace, quindi molto funky e soul, spesso anche al Marula, dove mette su musica e DJ. E, Banzo, abbiamo adesso un po' di news italiane da presentare ai nostri ascoltatori, spaziamo tra diversi generi, e stili musicali. Dopo il funky di Gianni Sciannamè, andiamo a un genere che si muove tra la canzone d'autore ma anche una canzone ironica, come quella di Gerardo Balestrieri, che noi seguiamo da tempo qui a Zibaldone. Ecco, io a questo punto, Steven, non so più cosa dire, sono allibito dalla prolificità di Balestrieri, che non so, compone dischi con una facilità disarmante, quindi andiamo subito a sentire cosa ci propone oggi, perché è anche molto versatile. Sì, andiamocela a sentire, dopo parliamo un po' del suo nuovo disco che insomma è appena uscito o sta uscendo in questi giorni, quindi insomma non è un'anteprima ma quasi. Eccolo qua, L'Am Duvin. Thank you. Bonsoir, l'âme divin, chanter de la bouteille. Renvre-toi, je pousse au cher déshérité. Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, en champ plein de lumière et de fraternité. Je sais combien il faut, sous la colline en flamme, de pain, de sueur et de soleil cuisant, pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme. Mais je ne sers point une graine malfaisante, car j'ai pour une joie immense. De le gosier d'un homme usé par ses travaux et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Car je prouve une joie immense quand je tombe. De le gosier d'un homme usé par ses travaux et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. J'allumerai les yeux de ta femme ravie. À ton fils je rendrai sa force séculaire et ses réponses frêles, athlète de la vie. Lui qui raffermit les muscles de la terre. En toi je tomberai, végétal ambroisi, rein pressé jeté par l'éternel semeur. Pour que de notre amour naisse la poésie qui jarrira verdier, diminuera le frère. Après je prends une joie immense. De le gosier de nom usé par ses travaux et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien que dans mes froids caveaux. Car je prouve une joie immense quand je tombe. De le gosier de nom usé par ses travaux et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien que dans mes froids caveaux. Immense de le gosier d'un homme usé par ses travaux et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Car je prouve une joie immense quand je tombe. De le gosier d'un homme usé par ses travaux et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Avete sentito che qui Gerardo Balestrieri Banzo canta in francese. Sì, infatti, unito al discorso della prolificità, è un fattore extra, perché appunto non ti aspetteresti che un cantautore italiano canti in francese, però lui lo fa, perché è intrepido. E lo fa bene, piace, lo fa bene. E gli piace spaziare. Ecco, io lì sul francese non mi esprimo per mancanza di mezzi miei, ecco. Però volevamo segnalare, appunto, si scherzava, dal mio punto di vista, anche con un po' di invidia, sulla prolificità di Gerardo Balestrieri, ma in questo caso il tutto è parzialmente spiegato dal fatto che il brano che abbiamo appena sentito è l'unico inedito di una raccolta che comunque arriva a culminazione di un lungo percorso artistico costellato da molti dischi, perché il nuovo album si intitola The Best Of, insomma. Esattamente, lo dice tutto, una sintesi di 15 anni di carriera, dove oltre a questo brano inedito ci sono altre 18 tracce, di cui 7, diciamo, in una veste nuova, perché ha riarrangiato e reinciso alcuni brani, 7 in questo caso, contenuti nei precedenti dischi. Ricordo che Gerardo Balestrieri è stato più volte nostro ospite l'anno scorso in occasione dell'uscita del suo ultimo album di inediti intitolato Dancing. Sicuramente però ci andremo a ascoltare in futuro qualche altro brano da questo Best Of, soprattutto alcune delle canzoni Banzo, diciamo, riarrangiate in questa veste nuova. Noi andiamo avanti perché abbiamo altre due news che ci arrivano dall'Italia. La prima di un gruppo molto conosciuto. Vuoi dire tu di chi si tratta? Si tratta dei Baustelle, che sono appena usciti col nuovo disco, adesso parliamo di titoli di dischi, che si chiama Elvis. Eh beh, mica male come titolo, eh? Vediamo un po' cosa ci propongono. Noi ci andiamo ad ascoltare una canzone bella ed ironica che si chiama Andiamo ai Rave. Eccoli qui, Baustelle. Come come fanno gli animali selvaggi a restare nella giungla, non andare in città. Non lo sanno dove sono gli eventi. Hanno il glitter e le pellicce migliori, stanno bene così. Guarda Paola, com'è triste stasera. Vuole uscire la notte, farsi un giro tra la gente dei bar. Ma si guarda nello specchio e capisce di essere sola nel mondo. Quelle stronze delle amiche hanno le foto e profili superstar. Vuole essere tigre, essere bella per sempre. Non essere schiava di nessuno e di niente. Senza benzodiazepine, il zebra o le feste. Essere un serpente di corallo anche lei. Per dimenticare i nostri cuori deserti. E che un giorno o l'altro si dovrà pur morire. Andiamo ai rei. Per restare vivi organizziamo concerti. Parti sulla spiaggia dove socializzare. Per non vedere il vuoto mai. Vedi Marco, cintura nera, vorrebbe andarsene su Marte una ragazza, farsi fare un pompino, ma si specchia nel bicchiere e capisce di essere pesce di fondo, e si vergogna di non essere felice, che disastro, che casino. Essere tigre, essere bello per sempre. Non essere schiavo di nessuno, di niente. Senza mezzo di azzevine, zebra alle feste. Essere un leone dello sballo anche lui. Per dimenticare i nostri cuori deserti. E che un giorno o l'altro si dovrà pur morire. Andiamo ai rei. Per restare vivi organizziamo concerti. Parti sulla spiaggia dove socializzare. Per non vedere il vuoto mai. Dentro di noi. Concerti, parti sulla spiaggia dove bere e stupare. Per non guardare a fondo mai. Dentro di noi. Oh! E beh, andiamo ai rave. Effettivamente, senti come si sta concludendo questo brano dei Baustelle. Andiamo ai rave, tratto dal loro nuovo album intitolato Elvis. Banzo, è molto Baustelle o un Baustelle a metà secondo te questa canzone? Ma io intanto stavo seguendo il tuo invito così per puro spirito sperimentale, anche se sapevo che era il titolo della canzone. Baustelle a metà, sì, perché fuori onda discutevamo del fatto che le strofe ricordavano entrambi un po' un andamento alla Lou Reed, diciamo, mentre il ritornello è veramente farina del sacco dei Baustelle, diciamo che si rifà al loro stile più riconoscibile, e secondo me anche a livello testuale c'è una forte continuità con i loro trascorsi, perché io sono un fan dei Baustelle, non è una critica. C'è un tema che emerge con grande frequenza, è quello di cercare a appigli nella monotonia, nella disperazione della vita per sentirsi vivi. Ecco, appunto, in questo caso si tratta del andare ai rave, c'è sempre un certo riferimento all'edonismo. Sì. Baustelle, Elvis, sicuramente anche di loro ne riparleremo nei prossimi mesi. Andiamo con un'ultima news che ci arriva dall'Italia, cambiamo un po' di genere, anche qui è un brano, Banzo, che so che, insomma, a te dovrebbe piacere abbastanza. Loro sono Colombre. Vuoi dire magari agli ascoltatori che Colombre, a cui Colombre non dice nulla, un po' di chi stiamo e di cosa stiamo parlando? Ma guarda, ascoltiamo prima il brano e poi vi do una brevissima descrizione. Dai, allora, Allucinazioni, questo è il titolo, ma in realtà il titolo è più lungo, perché dopo Allucinazioni c'è anche It's a Wonderful Cables Endless. Sentitevela qui. Pioggia passerà e un raggio di sole porterà via il dolore. E la luce correrà tra le serrande abbassate e sulle strade bagnate. E lo sai, sì lo sai, cosa ti resta quando sembra una giornata di merda e non hai neanche voglia di ridere? Dove sei? Senti che freddo che c'è, nascosto in qualche dettaglio, forse in fondo al mio sguardo c'è qualcosa di te. So che ti ho visto, non ci credo. Alta marea, qua giù la notte dura un'eternità, lo so, però gli occhi si abituano col tempo all'oscurità. E lo sai, sì lo sai, che cosa ti resta quando sembra una giornata di Realismo magico in Adriatico, fa pure rima. Questo è il titolo del nuovo album di Colombre. Banzo, diciamo qualcosa che i nostri ascoltatori a riguardo. Sì, ecco, Colombre ha giustamente annunciato terzo disco, bellissimo titolo, bellissima anche la copertina, andate a cercarvela. Originario di Senigallia, è conosciuto precedentemente come frontman dei Chewing Gum, sempre in area Garrincha Dischi, che abbiamo coperto abbastanza, ma è stato anche chitarrista di Calcutta nella tournée del disco Evergreen. E appunto è importante dire che questo è un brano dedicato a Mirko Bertuccioli, che è insomma il membro storico dei Camillas, Zavor, scomparso a causa del coronavirus all'inizio della pandemia. E è anche facile immaginare che ci sia una contiguità geografica a motivare il fatto che si conoscessero. E infatti probabilmente... si parla dell'Adriatico. Esatto, si parla delle Marche anche come zona geografica più specificamente. Eh sì, questo è un altro dei brani che vi proponiamo in questa puntata di Zibaldone, però in realtà c'è ancora un po' di musica, ci arriva dal Lussemburgo. Non vi dico qual è la prima proposta di Berardo Stagliano, che torna a trovarci, però insomma sappiate che è un brano molto carico di una band che ha alle spalle insomma parecchi decenni di carriera. Sentitevela qua. Dai, presto che è già tardi, lo ripeteva il mio coniglio, ad Alice ogni volta lo stesso consiglio. Bisogna sempre andare in fretta, far volare la bici, il cliente ti aspetta. Schivo pali in più direzioni, prendo botte ed insulti da tutti i pedoni. Manca poco che un camion mi c'entri e mi ammazza per portarti sta cazzo di pizza. Dai, presto che è già tardi, presto che è già tardi. Dai, anche se ti perdi, anche se ti perdi. Dai, presto che è già tardi, presto che è già tardi. Dai, io sono guai, anche se ti perdi, anche se ti perdi. E se consegni un po' in ritardo, tu telefoni al capo, io il posto lo perdo. Bisogna sempre andare in fretta, far volare la bici, il cliente ti aspetta. Vado veloce, mi guadagno la giornata, non mi fermo nemmeno per una pisciata. Se mi vedi scontro, sono un po' poco carino, è solo perché mi ha rubato il sellino. Dai, presto che è già tardi, presto che è già tardi. Dai, anche se ti perdi, anche se ti perdi. Dai, presto che è già tardi, presto che è già tardi. Dai, io sono guai, anche se ti perdi, anche se ti perdi. Dai, muori, cubi sulle spalle, arcobaleni di colori. Dai, muori, vaghiamo per la strada, né diritti né pensieri. Non ho né casa né soldi né un posto sicuro, se piove arrivo, lo giuro. Mi mandi messaggi sul telefonino, controlla il GPS che ti sputo nel panino. Questi l'avete sentiti, no? Il ritmo molto punk, sono appunto i Pancras che sono tornati con questo nuovo brano che ci arriva non dall'Italia, ma come ogni tanto succede, dal Lussemburgo, perché torna con noi anche questo mese Berardo Stagliano, a cui do subito il benvenuto. Berardo, bentornato a Zibaldone. Ciao mio caro, sempre un gran piacere essere dalle vostre parti e, come mi capita ogni tanto, porto un po' di chitarre, un po' di volume, e per il testo oltretutto un brano con un testo direi importante, un messaggio importante, come del resto messaggi importanti i Pancras ne hanno sempre dati da ormai più di 30 anni. Ti rendi conto, si sono formati nell'89, questo è il 12° disco, Steve. Sì, insomma, da quando è caduto il muro di Berlino loro hanno cominciato e sono ancora loro hanno tenuto. Sì, è da tanto che sono in circolazione ed è un piacere sapere che questa band continua a fare delle cose e continua anche con insomma dei testi che si legano all'impegno sociale. Assolutamente, una band oltretutto molto stabile, se pensi che dei cinque membri, tre sono membri originali della band, membri fondatori. Il loro nuovo disco si intitola Electric Déjà Vu, è uscito il 31 marzo, contiene oltretutto un po' di ospiti nel brano che abbiamo ascoltato, Dai Dai Dai, che poi può essere, come dire, scritto in modo diverso all'inglese o all'italiana. C'è l'ottimo Giancane, ma ci sono anche due dei Modena City Ramblers, e c'è anche la voce di Rafael, una bella voce del reggae italiano. Insomma, consigliatissimi, cari ascoltatori, se non conoscete i Pancras, andateli a scoprire, avete una lunga storia. Se volete andare all'indietro, quando era 4 anni fa, era uscita una bella raccolta, 30XXX, 1989-2000. 19. Appunto per celebrare i 30 anni di carriera. Ascolta Berardo, io domani passerò dalle tue parti in Lussemburgo a sentire i Sonori, approfittiamone per ricordare ai nostri ascoltatori quando vai in onda il tuo programma e anche insomma tutte le belle cose che fai per mantenerti e mantenerci aggiornati sulle news italiane con il blog di Sentieri Sonori. Eh sì, Sentieri Sonori va in onda ogni sabato mattina, puntualissimi dalle 11.30 alle 13, per ascoltarci in tutto il mondo si può ascoltare in diretta o in podcast comodamente su ara.lu, il sito della nostra radio, trovate i link, li trovate anche su sentierisonori.blogspot.com, il nostro blog, un post al giorno, come diceva Steven, cerchiamo di aggiornare sulle ultime uscite e del resto insomma quelli di cui stiamo parlando oggi sono gli ultimi due ospiti delle due scorse settimane, quindi cari ascoltatori potete anche andarvi a recuperare le interviste se vi interessano, compresa quella di sabato scorso ad una artista terribilmente affascinante, sei d'accordo Steven? Sì, è molto brava, una delle più interessanti voci, una delle più interessanti cantautrici che ci arrivano dalla Sardegna. Noi ne parlammo proprio un mese e mezzo fa più o meno, in una puntata dedicata alle cantautrici sarde. Tra la selezione che abbiamo proposto ai nostri ascoltatori c'era anche lei, Daniela Pes. Una giovane cantante sarda con una storia di studi e di prime apparizioni sui palchi in ambiti jazz, anche al fianco per esempio di Paolo Fresu. Negli ultimi anni ci ha raccontato, ha iniziato a voler esplorare un mondo un po' tutto suo a partire già dalle liriche, perché non sono liriche in italiano, non sono in sardo, sono in una lingua un po' tutta sua, nella quale si possono ritrovare suoni di lingue che conosciamo, e anche musicalmente io farei una fatica terribile a dare delle coordinate musicali per quella che sembra veramente più che un disco un rituale sciamanico molto affascinante, che consiglio di ascoltare magari di notte con le cuffie. Sottolineo che tutto questo lavoro l'ha fatto affiancata da Jacopo Incani, in arte Io sono un cane, che insomma è sicuramente uno degli artisti di maggior talento che sono usciti nell'ultima, quant'è, decina, quindicina forse di anni, mamma mia. Ormai sì, no? Era 2008 se non sbaglio, la Macarena su Roma, un po' dopo, sbaglio io? Da quelle parti là, infatti, 10-15 anni, insomma, l'ottimo Io sono un cane a fianco a Daniela Pes, caro pubblico di Zibaldone, andatevi a scoprire Spira, è uscito il 14 aprile per Tanca Records, questo primo album per Daniela Pes. Eh sì, e con questo brano noi ci salutiamo, ti aspettiamo il prossimo mese, però domani noi ci sentiamo perché vengo io a farti visita a Sentieri Sonori Radio Ara Lussemburgo. Berardo, grazie davvero di essere stato con noi, un grande abbraccio, ti lascio lanciare questo brano di Daniela Pes. Grazie a te Steven, sempre un grandissimo piacere essere dalle vostre parti. Vi lascio con Daniela Pes, l'album si intitola Spira e la canzone che vi propongo quest'oggi è Carme. Sola va. Iniziative in tutto il mondo per la giornata della Terra. La sua morte, un enigma incomprensibile. Con la temperatura del pianeta in costante aumento, c'è anche chi azzarda il primo bagno della stagione. L'orsa JJ4 rinchiusa dopo la cattura, la russa ne chiede l'abbattimento, forse anche con una spranga. Non c'è nemmeno nella Costituzione. Inserito nell'elenco dei ricercati dal governo il 25 aprile, diventa un oggetto su cui scatenare le proprie frustrazioni. L'immagine simbolo della Meloni che inaugura il Salone del Mobile di Milano, premiata come foto dell'anno. Luigi Di Maio, inviato speciale all'Unione Europea per visitare il doppio derby di Champions, un incarico che divide, e pensare che è un simbolo di tenerezza per l'infanzia da almeno 5 anni. Non possiamo tassare ugualmente single e genitori. Accolto il ricorso della Juventus contro il calo demografico. 70 punti galleggianti in mare aperto in attesa di essere recuperati, ma stavolta a bordo di uno yacht di lusso. La procura è un incidente, escluso il sabotaggio. Trattativa finale per la privatizzazione dell'Italia fra le mete europee, la seconda più visitata. Ambasciatore ad eccezione per il rilancio del settore, Massimo Boldi. Un simbolo di tenerezza per un tragico scambio di persona. Lo slogan Italia open to fibrillazione. La rabbia dell'UNESCO. Trovatelo e mettetelo in carcere. Volgare e sessista. Un corpo celeste luminosissimo si accende e prende di mira il ministro Lollobrigida e Arianna Meloni ogni 18 minuti a 4.000 anni luce dalla Terra, grazie alle frequenze radio che emana. Il ministro Pichetto Fratin chiede l'evacuazione delle ambasciate dei cittadini occidentali dal pianeta, ma la cucina italiana resta campione dell'universo. Siamo qui ancora una volta. Siamo sicuri che adesso si svolta. C'è il bando che strapara fuori onda. Occhio che il capo s'arrabbia. Radio contrabbanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. Siamo qui ancora una volta. Siamo sicuri che adesso si svolta. C'è il bando che strapara fuori onda. Occhio che il capo s'arrabbia. Radio contrabbanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. Radio contrabbanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. È certo che faccio la domanda dopo che sono tornate come in settimana le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, perché ecco, secondo me la grande notizia di queste ultimissime, che non appare mai nemmeno nei telegiornali più mainstream, è il fatto che ci si sia parlato del ministro Pichetto Fratin. Sì, in effetti sono dovuto andare a cercare chi era. Dici, vabbè, non sei preparato sulla squadra di governo. Scusate, ma la transizione ecologica è un ministero che in Italia ha poca rilevanza e ancora meno in un governo di questo tipo. Però forse mi rendo conto che sto dicendo qualcosa che non fa ridere, e quindi vogliamo andare all'ultima affermazione delle ultimissime, che consolerà il governo, appunto, perché la cucina italiana resta campione dell'universo, Steven, è importante. Io poi non ho mai provato le cucine di altri sistemi solari, qui a Barcellona sono ristoranti di tutti i tipi, di tutte le tradizioni gastronomiche, ma di altri sistemi solari no, quindi non potrei dirlo. Poi c'è questo corpo celeste luminosissimo che è volgare e sessista, e prende in giro prende di mira il ministro Lollobrigida e la sorella della Premier, non ho capito bene in che modo, vabbè, però forse parliamo però di una delle notizie della settimana, non quella di Massimo Boldi, ma se vuoi puoi dire qualcosa, ma quella di Luigi Di Maio, inviato dell'Unione Europea nei paesi del Golfo. Ecco, dicevo, in quel caso non sono in grado, nell'altro caso non ero in grado di giudicare perché non ho studiato astronomia, ma qui appunto posso dire che secondo me Di Maio non è la persona giusta. Beh, è sicuramente super partes perché non è probabilmente tifoso né dell'Inter né del Milan, però credo che la sua competenza non sia adatta a questo campo come a nessun altro, ecco. Bene, insomma, sono tornate anche le ultimissime. Noi andiamo avanti perché ci stiamo avvicinando alla fine di questa puntata del 28 aprile di Zibaldone. È arrivato il momento della sezione De Italia Otra Parte. Quest'oggi scopriamo, o magari qualcuno riscoprirà se già li conosceva, lo Scatinos. Sentiteveli qua. oculta el sol dentro de mi corazón. Será quizás por culpa de otro amor. Los días pasan tristes dentro de mí, sin luz y un poco de calor. Bajo un eterno cielo encantador, un viento helado trajo a mí el dolor. La blanca luna que nos hizo soñar se esconde y huye con el sol. Muere en la sombra la vida y el silencio de tantos recuerdos. Y si el cariño termina, sufre el amor. Oh, oh, oh. Se oculta el sol y quien lo oculta eres tú. Porque otro amor de mi amor te robó. Enamorarme ya no quiero amar. Y a nadie más quiero buscar. Tan solo tú. Termina, sufre el amor, oh, oh, oh. Se oculta el sol y quien lo oculta eres tú. Porque otro amor de mi amor te robó. Enamorarme ya no quiero amar. Y a nadie más quiero buscar. Tan solo tú. Enamorarme no podré, ni enamorarme no podré, enamorarme no podré. Se oculta il sole è il titolo di questa canzone dello Scatinos. Ovviamente immagino che tutti o quasi tutti ve ne siate resi conto, Banzo è una versione di Si è spento il sole di Adriano Celentano, una delle canzoni forse tra le più conosciute del molleggiato, che vale anche la pena ricordarlo. C'è anche una versione molto bella di Vinicio Capossela, visto che di Vinicio Capossela abbiamo ascoltato un brano all'inizio di questa puntata. Sì, ma non potevamo proporlo per dei tagli altra parte, quindi abbiamo ripiegato sullo Scatinos, che hanno un nome alquanto bizzarro. Ecco, io sono anche andato a cercare, effettivamente la parola catino esiste anche in spagnolo, io lo ignoravo, però nel dizionario dell'Accademia Spagnola c'è, ha significati parzialmente sovrapponibili a quelli italiani, però non esattamente uguali, e comunque sembra che il nome sia semplicemente l'anagramma del nome originale del gruppo, che era Los Ticanos. Qui ricominciamo, cosa vuol dire? Non lo so. Ecco. Era un gruppo di Barcellona attivo soprattutto fra gli anni 60 e 70. Lo abbiamo scelto perché ha fatto cover di canzoni italiane, ma perché questa cosa? Per il semplice fatto che nella loro fase più importante di carriera si sono dedicati esclusivamente alle cover, hanno coperto anche abbastanza la musica francese, però rimanendo all'Italia, poi magari ci riserviamo di farvi conoscere altre cover de Los Catinos, hanno coverizzato anche Little Tony, Don Bacchi, Antoine, Gino Paoli, per esempio, e non li ho detti tutti. E concludo, prima di passare al secondo brano dello Scatinos, perché ci abbiamo preso gusto, con la mia immancabile nota di traduzione. Ecco, in questo caso il titolo della canzone italiana era Si è spento il sole, e in spagnolo il significato è leggermente smorzato, perché occultar, come si può capire, significa nascondere, quindi in questo caso il sole non si spegne, ma solo si nasconde nel cuore della voce narrante. Quindi, per rispettare il senso, diciamo che a livello semantico il termine è un po' meno intenso. Eh sì, ricordo che dei Italiotra Parte è una sezione dove proponiamo canzoni di artisti italiani, però appunto interpretate in lingua spagnola, tradotte, interpretate sia nella penisola iberica che in America Latina. Andiamo con un secondo brano dello Scatinos, si intitola Proposta, vediamo se magari riconoscete la versione originale. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Qué importa mi nombre? Yo soy un obrero, trabajo ganando muy poco dinero. Si salgo del taller, no puedo ir a bailar ni un querer esperar. Me gusta el trabajo, pero me lamento, y no es por el sueldo que estoy descontento, es por mi juventud. A mí me traicionó porque nada me dio. Sonríe por favor, que gloria en tu camino, que llega triunfante a las estrellas. Pues al vivir en ellas no hay luchas ni querellas, y como en sueños cantarán una balada de paz, de paz, de paz. Venga, otro. Tú que aún eres joven, ¿yo? ¿De qué puedes protestar? Yo cumplí 20 años y vendo diarios, así pregonando, yo voy por el barrio. Hay muchos por aquí que callan su dolor por lo mismo que yo. Yo pinto mis cuadros que nunca se venden, pues pinto esperanzas que nadie comprende. Amé la libertad, pero la sociedad de mi lado se va. Sonríe por favor, que flore tu camino, que llega triunfante a las estrellas. Pues al vivir en ellas no hay luchas ni querellas, y como en sueños cantarán una balada de paz, de paz. No me dirás que puedes lamentarte de algo. No, de buena familia, yo soy el dejado, mi casa y los míos que me han olvidado. No me hablo con mamá, tampoco con papá, y ni sé dónde está. Me gano la vida del modo que puedo, y así indiferente, tranquilo me quedo. Pero en mi soledad empieza a comprender que me falta el querer. Sonríe por favor, que flore en tu camino, que llega triunfante a las estrellas. Pues al vivir en ellas no hay luchas ni querellas, y como en sueños cantarán una balada de paz, de paz. Questo è il brano che ci siamo sentiti dello Scatinos. Banzo, prima mi sono confuso perché Proposta è ovviamente il titolo in italiano, il titolo in spagnolo è In questa, che è effettivamente comunque corretto, perché si tratta appunto di una specie di sondaggio, che è la parola In questa in spagnolo. Sì, il brano dei Giganti, mitico, del 1967, come anche la versione dei Catinos, no, forse quello dei Giganti leggermente precedente. Comunque qui in questo caso cambia il ritornello, rimane la ballata di pace che diventa ballata de paz, però il resto della struttura cambia molto, si perdono le molecole malate che mi avevano sempre colpito per la straordinaria genericità, ecco. Però a livello di notazione sociale, se vuoi anche un po' spiccia, pensavo al fatto che questo brano è stato comunque inciso dallo Scatinos nel 67, che era un periodo nel quale in Spagna non doveva essere ancora facilissimo chiedere alla gente come se la passava, ecco, perché mentre l'Italia, pur con tutte le difficoltà del caso, nascente strategia della tensione, eccetera, aveva imboccato un sentiero democratico, e con la Spagna era ancora abbastanza lontana da questo punto, però venivano tradotte canzoni di pop italiano che appunto parlavano anche di questi temi. Sì, canzone che tra l'altro arrivò terza a Sanremo nel 67, i Giganti, che tra l'altro, parentesi, prima erano conosciuti con altri nomi come Gli Amici e i The Genga Friends, e devo dire, Banzo, che i The Genga Friends mi fa un po' sorridere come nome, non so tu che ne pensi. Beh, è un bel nome, non lo sapevo, e a questo punto mi riservo di riutilizzarlo per iniziative future della mia vita. Sì, comunque, insomma, arrivarono terzi a Sanremo in abbinamento con il trio inglese The Bachelors, sai che a quell'epoca, no, c'erano gli abbinamenti negli anni d'oro di Sanremo, che sono stati gli anni 60, e nel 68 invece cantarono con, in coppia con Massimo Ranieri, il brano Da Bambino, che arrivò invece settimo. Insomma, comunque, i Giganti, ecco, un gruppo del beat italiano attivo soprattutto alla metà degli anni 60, la seconda metà degli anni 60, per quando dopo con le reunion abbiano continuato, e da quanto dice Wikipedia sono tuttora in attività. Noi, ecco perché è difficile percepirlo, forse per quello. Vabbè, logico, certo, certo. Comunque famosi anche, forse poco famosi, per il disco Terra in Bocca, che è un concept album sulla mafia, una cosa stranissima, 1971. Sì, questo è importante. Magari, per i tempi. Eh sì, un giorno magari lo riscopriremo. Noi però andiamo ad ascoltarci ora, chiudiamo la rubrica di Italia Otra Parte, andiamo ad ascoltarci una news molto bella, molto particolare ed in attesa, bisogna dire la verità, perché il prossimo mese di giugno uscirà un nuovo album, dopo tantissimi album, anni di silenzio, di Yusuf, ossia Cat Stevens. King of a Land è il titolo del disco. Tra l'altro Cat Stevens compirà a breve i 75 anni, ed è uscito un singolo che lo anticipa, si intitola Take the World Apart. Ce l'andiamo a sentire, Banzo, perché insomma, dai, Cat Stevens veramente è un nome importante, dopo tanti anni di silenzio è bello avere una nuova canzone di questo grande artista. Assolutamente, sentiamo cosa da proporci e poi lo commentiamo. I'll take the world apart to find a place for a peaceful heart. I know I've got to find it, although I break down the walls of China. I shake the world around until my little mellow home is found. I look till I find my beauty. I would jump right over Mount Fuji. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. I'll cross the ocean wide if I knew it's on the other side. I'll find some boat to sail in, or might have to swim all the way. I'll make the world give up until it leads me to the land of love. I'll go any length to see a tunnel under the Colosseum. I will la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A place for a peaceful heart. I know I've got to find it, although to break down the walls of China I will. Baldone, perché dove saremmo noi senza Leopardi? La rubrica di libri del nostro programma. Sì, avete sentito che sta andando in onda ancora la sigla della nostra sezione dedicata ai libri dello Zibaldone, il libro della settimana, qualche settimana manca, qualche settimana c'è, insomma un po' così a modo nostro come è solito succedere qui a Zibaldone. Banzo, questa settimana parliamo di un libro che è uscito in realtà 3 anni fa, nel 2020, per i tipi della Donzella Editore, nella collana Saggine, di Luca Falsini, La storia contesa, l'uso politico del passato nell'Italia contemporanea. Un libro, credo, di cui è necessario leggerlo, perché ci fa capire molte cose su quello che è successo e quello che ancora sta succedendo nel discorso pubblico e appunto nell'uso pubblico e politico del passato, e non solo del fascismo ma anche del fascismo. Ma per di più, Banzo, insomma, è importante anche ricordarlo e parlarne in questa settimana in occasione del 25 aprile, tenendo conto di tutto quello che si sta dicendo negli ultimi giorni, ma in realtà negli ultimi mesi, come minimo da quando è cominciato, insomma, il governo Meloni, sulla resistenza, sull'antifascismo, sulla Costituzione, evidentemente sul ventennio mussoliniano. Sì, non ho moltissimo da aggiungere, purtroppo hai detto tu, non lo so, le esternazioni di La Russa su Via Rasella, per fare solo un esempio. Cioè, comunque quest'opera abbastanza interessata di ricontestualizzazione che ha principalmente un obiettivo, che è normalizzare il fascismo e ignorare il fatto che i fondamenti della nostra Repubblica siano antifascisti. Ed è un argomento che stiamo coprendo a più riprese, perché è importante farlo, e secondo me è, purtroppo bisogna ammettere che in questo momento stanno riuscendo nel loro obiettivo, ecco, perché sì. La sensibilità antifascista si è persa in ampi strati della società rispetto a anche solo un paio di decenni fa. Sì, assolutamente, è così. Diciamo che in ogni caso vediamo un percorso che è cominciato come minimo a partire dalla fine della Prima Repubblica, dall'inizio degli anni 90, con l'entrata in scena di Berlusconi, il primo governo nell'anno 94, insomma ormai sono passati quasi 30 anni, con il movimento sociale, quello che era il polo escluso, secondo Piero Ignazi, della politica italiana della Prima Repubblica, al governo, no? Insieme in quel caso a Forza Italia e alla Lega Nord di Bossi. Ecco, da lì, insomma, diciamo, è cominciato un percorso, e Falsini lo ripercorre in questo agile volume, molto completo, però pur essendo agile, di facile lettura, dove tocca, insomma, tante tematiche, ecco, quella del fascismo e dell'antifascismo, senza ombra di dubbio che è molto importante, con questo lavorio continuo di banalizzazione della dittatura, no? Insomma, quel classico refrain, Banzo, no, Mussolini ha fatto anche cose buone, che è anche il titolo di un libro che cerca proprio di smentire tutte le fake news e le menzogne che esistono sul fascismo, da quella dei treni in orario a molte altre, insomma, sull'assistenza sociale. Un libro molto bello, dicevo, di Francesco Filippi. Ecco, ma per parlare di questo volume di Falsini, ecco, ripercorre anche, insomma, tutto il dibattito esistente, come minimo negli ultimi 30 anni, ma anche prima, sulla resistenza, tanto in ambito storico come più in ambito, diciamo, politico, giornalistico e di opinione pubblica. E per esempio si focalizza su alcune tematiche che hanno avuto un particolare protagonismo. Tu prima menzionavi Via Rasella, e certo, le Fosse Ardeatine non è solo in questi ultimi giorni che sono state un terreno terreno di battaglia della memoria, ma anche per esempio il tema delle foibe o il tema del triangolo della morte, che ha avuto protagonismo Banzo fin dai tempi del volume, un best seller davvero, ha venduto praticamente 500.000 di copie di Giampaolo Pansa, Il sangue dei vinti. Ecco, esatto, oltre al fatto che praticamente hai fatto due libri in uno anche con il precedente excursus, stavo appunto per aggiungere io che in quest'opera di ridiscussione storica Pansa ha avuto un ruolo importante e la destra vi si è aggrappata con forza, anche considerando i suoi trascorsi, come voce legittima per i trascorsi in quanto voce legittima, per riuscire a ciurlare nel manico e diciamo normalizzare, come hai già detto, questa narrazione che forse per i più giovani è pane quotidiano, però appunto fino alla fine della Prima Repubblica, come sottolineavi, l'MSI era polo escluso anche perché c'era una forte coscienza della natura antifascista della nostra Repubblica, che dopo si è andata progressivamente perdendo. Eh certo, e tra le tante tematiche che tocca il libro di Falsini vale la pena anche menzionare non solo ovviamente il tema anche del comunismo e dell'anticomunismo, ma anche la questione dei manuali scolastici, che è stata uno dei terreni in cui si è sviluppata la cosiddetta guerra della memoria nei tempi della Seconda Repubblica, no? Con manuali considerati faziosi, appunto perché diciamo insomma con una posizione antifascista, ecco, e invece tutta una memoria anti-antifascista che appunto è qualcosa di simile ma anche non proprio uguale a quella che è stata la narrativa del neofascismo fin dal 1945 in avanti, che insomma è stata mantenuta viva in tempi della Prima Repubblica da parte dell'MSI, del Movimento Sociale guidato per molti anni da Giorgio Almirante. E poi un ultimo appunto credo importante, anche tutta la questione legata al Risorgimento, che ha avuto un momento clou, se così vogliamo, nel 150esimo dell'unificazione dell'Italia nel 2011, ma poi anche appunto le diverse letture che ci sono state in questi ultimi decenni da nord e da sud, ossia insomma la lettura diciamo antirisorgimentale che per molti anni ha portato avanti la Lega Nord, non così, non al giorno d'oggi ovviamente ai tempi di Salvini, e da sud diciamo la cosiddetta polemica meridionalista con i neoborbonici. Beh sì, in effetti diciamo che la Lega ha avuto questo cambio di pelle straordinario, perché dopo la svolta nazionale sicuramente non l'avrebbero messa in discussione. Sui neoborbonici non mi pronuncio, è un terreno minato, però effettivamente sì, è uno dei, posso dire che è uno dei temi più contesi a livello social, sicuramente. Ecco, mi è capitato, forse uno dei temi che a livello storico vedo più dibattuti fuori dai media standard, dalle pagine di Repubblica, Corriere e così via, è quello del Risorgimento, soprattutto da parte neoborbonica. Quindi è interessante sottolineare come le nuove tecnologie abbiano dato una forte visibilità a questa corrente. Eh sì, per chiudere solo un'ultima menzione, insomma il testo di Falsini offre, ricordo il titolo, La storia contesa, l'uso politico del passato nell'Italia contemporanea, uscito per i tipi di Donzelli nel 2020, offre una visione panoramica appunto in poco più di 200 pagine di una tematica complessa su cui si è scritto tanto, di cui si parla molto, ecco, ci sono tanti altri libri ovviamente su questo argomento, segnalerei i lavori di uno storico apprezzato come Filippo Focardi, no? Sia sull'uso pubblico del passato e nel caso concreto la memoria dei partigiani e della resistenza, ma anche il mito dell'italiano brava gente, no? Del buon italiano, ecco, contrapposto al cattivo tedesco, ma poi anche utilizzato per, e qui tocchiamo un'altra tematica su cui ha scritto molto tra gli altri Angelo Del Boca, il mito del buon colonialismo italiano, ecco, insomma, un'Italia che non ha fatto i conti con il suo passato passato coloniale, con i genocidi commessi tra gli altri appunto in Libia e in Eritrea e in Etiopia, no? Ovviamente qui stiamo aprendo veramente una tematica enorme, ne abbiamo voluto parlare rapidamente in questa sezione del libro della settimana, con La storia contesa, l'uso politico del passato nell'Italia contemporanea di Luca Falsini. Sì, siamo davvero alla fine di questa puntata di Zibaldone, banzo tra Storia contesa, tra Inverno liquido, tra tanti brani, tra cui news di artisti che mancavano da tempo, come Vinicio Capossela o Cat Stevens, insomma sono volate queste due ore, però appunto ci rimane ancora il tempo per l'ultimo trago, per il brano con cui ci salutiamo, che è anche in questo caso di un altro apprezzato artista di cui abbiamo parlato spesso qui su Zibaldone. Qui Steven, io ormai conosco le tue passioni, quindi non mi sorprendo davanti a un ultimo trago di Bob Dylan. Diciamo che anche chi ha la bontà di ascoltarci, secondo me, a volte è capace di capire chi di noi tre, includendo anche Fausto, ha scelto certi brani, ecco. Sì, lo immagino. Comunque, insomma, ne vado fiero. Shadow Kingdom è il nuovo album di Bob Dylan, non è un album di inediti, attenzione, che uscirà nel mese di giugno e che è stato registrato 2 anni fa, nel luglio del 2021, quindi insomma in mezzo ancora alla pandemia, a Santa Monica. In realtà è un concerto film documentario, anche il documentario uscirà in questo mese di giugno, dove Dylan, diciamo, ripercorre alcuni brani del suo repertorio, tra cui I'll Be Your Baby Tonight, Queen Jane, Approximately Forever Young o anche Watching the River Flow, che è il singolo, diciamo, per così chiamarlo, che anticipa questo disco, che è già uscito, con anche un bel videoclip che sarà, immagino, parte del documentario e che noi ci andiamo ad ascoltare ora e con cui ci salutiamo. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, attenzione perché cominciano 3 puntate monografiche, non vi diciamo su cosa, lo scoprirete venerdì prossimo. Banzo, grazie mille di essere stato con noi. Grazie a te Steven, ci risentiamo la prossima settimana. Eh sì, e anche grazie a tutti voi che ci avete accompagnato in queste 2 ore. Buon venerdì sera, fate l'amore con il sapore, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván. Non vi ho mai alla fine spiegato che il titolo Azul Felawen in lingua amazigh significa che la pace sia con te. Eh sì, insomma, ne abbiamo bisogno, soprattutto in questi tempi. Ciao Banzo, grazie mille. Bob Dylan, Watching the River Flow, godetevi questo nuovo brano, o meglio dire questa nuova registrazione di un brano già conosciuto del Bardo di Duluth. What's the matter with me? Don't have much to say. Till I sneak into the window, I'm still in this old night cafe. Walking to and fro beneath the moon, where the ducks are rolling slow. Sit on this bank of sand and watch the river flow. Wish I was back in the city, in my true love's arms. She likes older men, they can't resist her charms. Got wings and I can fly, I know where I will go. Right now I sit right here, watch the river. People disappearing everywhere you look. Don't know where to draw the line. Only yesterday I seen somebody who was really in a bind. this old river keep a rolling low. Where it's stopping when the wind might blow. I sit right here and watch the river flow. Disappearing everywhere you look. Can't ever stop and wonder why. Only yesterday I seen somebody to save me cry. This old river keep a rolling low. Where it stopped and where the wind might blow. I'll say my